24 mattino estate con Irene Zerbini. Anche se è riapersa la nebbia, ancora estate, 16 minuti dopo le 7. Buongiorno, ben ritrovati. Sono cruciali per salvare vite umane. Con questo messaggio l'amministrazione di Barack Obama ha presentato appello contro la decisione di un giudice che negli Stati Uniti aveva bloccato i fondi pubblici per la ricerca sulle staminali embrionali. Di questo stiamo parlando. Barack Obama aveva suscitato le proteste dei conservatori antiabortisti stanziando denaro federale per la ricerca su questo tipo di cellule, e la prestigiosa Stanford University ha commentato, ma tutto il mondo scientifico, che le cellule embrionali hanno un immenso potenziale per guarire patologie oggi incurabili. E dunque vi chiediamo proprio questo oggi: l'Italia è indietro sul tema delle staminali? Siamo in ritardo? E ne discuteremo poi con dei ricercatori, anche con Francesco D'Agostino, che è il presidente onorario del Comitato Nazionale di Bioetica. Il tutto alle 8:30 durante la trasmissione Bianco o Nero. Potete votare, dare la vostra opinione al www.radio24.it e poi partecipare alla trasmissione col numero telefonico 800 24 00 24. Prima però ci concentriamo sulle vacanze che si concludono, stagione agli sgoccioli, e molti sono partiti sfruttando la possibilità del low cost. Basta fare un giro sui siti per avere diverse sollecitazioni: prenotate subito, partite da settembre, prenotate di notte, prenotate di giorno. Ma esiste un'equazione per capire quando prenotare? Soprattutto si può applicare la matematica al low cost? Per chiarirlo saluto con noi Claudio Piga. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Claudio Piga è docente di economia industriale con ricerche specifiche sulle strategie di prezzo delle compagnie low cost, e in questo momento si trova in Inghilterra, perché insegna alla Loughborough University. Esattamente in quale città l'abbiamo svegliata, professore? A Nottingham. Loughborough è vicino a Nottingham, però io vivo a Nottingham. 6:18 del mattino, coraggioso, grazie. Senta, allora, esiste un'equazione matematica per capire quando prenotare? No, il riferimento probabilmente che lei mi fa, Irene, è a un articolo che è stato divulgato di recente. E quella è stata una boutade giornalistica. È difficile infilare la complessità del meccanismo di prezzo delle compagnie aeree in una singola formula. Il formalismo matematico, la modellizzazione serve in economia per catturare alcuni elementi di questa complessità nei meccanismi di prezzo. Si possono scrivere formule che ad esempio evidenziano la necessità o meno di fare sconti in avanti, cioè fare sconti per acquisti preliminari, ecco, tipo compro prima di 21 giorni e allora pago un prezzo inferiore, e se compro all'ultimo minuto pago un prezzo più alto. Ecco, si può dimostrare matematicamente che questo è razionale per le imprese. E poi invece lei dice ci sono elementi comunque imponderabili. Ma facciamo un passo indietro. Sì, è stata pubblicata una formula, da qui la nostra domanda, una formula per un risultato chiarissimo, cioè essere sicuri di fare davvero un affare. I biglietti aerei low cost, secondo questa formula, 8 settimane prima della partenza e di pomeriggio sarebbero matematicamente i più convenienti che si possono trovare. E la formula sarebbe di Makoto Watanabe, che è un economista giapponese che si è preso la briga di elaborare una cosa simile a profitto uguale e poi delle equazioni che indicano il minuto, il momento migliore per avere il prezzo davvero conveniente, ed è stata pubblicata sull'Economic Journal, quindi sembrava che avesse anche qualche credibilità, professor Piga. No, l'articolo è assolutamente interessante, è molto tecnico, è formalmente molto avanzato, è scritto molto bene ed è un come dire, uno strumento di analisi molto interessante, che fornisce molte chiavi di interpretazione su quello che poi le imprese effettivamente fanno. Il merito scientifico dell'articolo è indubitabile, tengo a precisare. Magari ecco, questo, quando si fa e si costruisce un modello matematico, è poi necessario avere dei dati che vanno a confutare o vanno a evidenziare i punti di forza di quel modello, e magari ne evidenziano anche i punti di debolezza, su cui poi la scienza matematica economica interviene per colmare gli eventuali gap del modello e per cercare di capire ulteriormente quel discorso della complessità che permea le attività delle compagnie aeree. Questo, quindi lei sta dicendo l'articolo ha del merito, però non è vero che prenotando 8 settimane prima della partenza di pomeriggio troveremo necessariamente il prezzo migliore. Io non posso dire nulla sul discorso mattina-pomeriggio, mi sembra un po' troppo, non corrisponde a quello che io ho notato, avendo collezionato anch'io varie decine di milioni di prezzi di compagnie aeree low cost, non posso dire. Secondo il suo collega giapponese, però ho notato che esistono fondamentalmente due elementi di cui tener conto. Uno è sì il discorso temporale che Watanabe fa, 8 settimane, a me 8 settimane per quanto mi riguarda sembra un po' troppo presto, magari dai miei dati risulterebbe che in effetti comprare troppo in anticipo, e secondo me 8 settimane per il consumatore medio è molto in anticipo, stiamo parlando di 3 mesi prima all'incirca, insomma, no, 2 mesi prima, 2 mesi e mezzo prima. Sì, 2 mesi e mezzo, poi dipende se lei considera febbraio. Prenota un weekend ad Amsterdam, prenotandolo 2 mesi e mezzo prima, insomma. Non rientra nelle abitudini, ma lei diceva no all'elemento mattino-pomeriggio. Io le spiego semplicemente quello che so dell'ipotesi Watanabe. Il suo collega economista ipotizza che le compagnie aeree mettano online al mattino i prezzi più alti, perché si controllano i siti appena arrivati in ufficio e soprattutto quando si viaggia per affari si ha questa procedura di controllare al mattino, e dunque la gente che viaggia per affari è tipico negli studi di economia industriale del mercato aereo effettivamente differenziare due tipologie di consumatori: chi viaggia per motivi di business e chi viaggia per motivi di turismo, e quindi si ipotizza che chi viaggia per business abbia sicuramente meno tempo da perdere per fare ricerche su internet, e quindi il primo prezzo che trova, se è nel sì, range, insomma, se è ragionevole, se lo prenderà. Se lo prende. Invece una persona che viaggia per turismo, e in genere magari deve viaggiare con famiglia, quindi è molto più sensibile al tipo di prezzo che gli viene presentato, e quindi è più indotta a comprare ovviamente se il prezzo è più basso. La fermo un attimo, professore, perché con noi c'è Fabio Cannavale, il fondatore di volagratis.com, il motore di ricerca, uno dei più gettonati per i voli low cost. Buongiorno, benvenuto Fabio. Buongiorno. E dunque si viaggia adesso addirittura con la formula matematica, ha sentito. Cosa ne pensa di questa ipotesi dell'economista giapponese per cui 8 settimane prima di pomeriggio si trovano i prezzi migliori? Questo è quanto si sostiene. Ma allora, la formula secondo me non è correttissima, nel senso che la parte corretta è che sicuramente prenotando prima costa meno. Il dire che sia 8 settimane in realtà dipende molto da diverse compagnie aeree e non è sempre vero questo fatto. Sul mattino pomeriggio ho dei fortissimi dubbi, soprattutto sulle compagnie low cost. Una cosa che può essere vera sulle compagnie di linea, che sono più orientate al traffico business, sulle compagnie low cost no. Eventualmente direi che è meglio prenotare per pochi passeggeri, se dobbiamo dare un trucco di questo tipo. Se uno, per esempio, deve prenotare 6 passeggeri, meglio prenotarli a 2. Avrà dei prezzi diversi se li raggruppa a 2 che se li mette tutti insieme. E questo da quale elemento è dettato? Allora, perché di fatto il modello di pricing, come sa bene il professore Compagniere, è molto semplice. È fatto su 2 elementi, sul numero di posti che sono stati già venduti e su quanto è lontano la data della partenza. Le faccio un esempio: una compagnia aerea mette in vendita un biglietto per ottobre, parte dal prezzo minimo, che per esempio per i Ryanair sono 10 euro tasse incluse, per Ryanair e EasyJet magari 20 euro. Poi a seconda di quanti posti vengono venduti, man mano il prezzo aumenta. Questa è la regola generale. A questo poi si applica in più un modello che dipende quanti posti sono stati venduti, perché se loro vedono che un volo di ottobre un mese prima è già a metà pieno, ovviamente cercano di vendere gli ultimi posti a un prezzo più alto. Se invece un volo in sofferenza, cioè magari un mese prima è ancora quasi tutto vuoto, il prezzo rimane basso o eventualmente si può anche abbassare. Man mano che vengono prenotati più passeggeri, il prezzo si alza, quindi capita più volte che se uno chiede 6 passeggeri insieme, i primi 2 possono costare ancora magari 30 euro e gli ultimi 2 possono costare già 50-60 euro, cioè gli ultimi 2 successivi. Questo è chiarissimo. E tra l'altro si sono cambiate con le compagnie low cost anche le modalità di scelta della destinazione. Quali sono le considerazioni del viaggiatore del 2010 secondo i dati che lei ha a disposizione, Fabio Cannavale? Che il consumatore oggi come oggi è molto disponibile a vedere dove è possibile andare. Noi abbiamo inserito sul sito Vola Gratis da circa un anno una modalità di trovare le offerte per prezzo e vediamo che adesso un 20% dei nostri consumatori cercano il volo in questa modalità, cioè dicono: voglio spendere 50 euro o 100 euro, noi abbiamo le varie categorie, uno può scegliere il suo prezzo e a seconda del prezzo che mette lui può scegliere prima la destinazione, gli facciamo vedere solo le destinazioni dove ovviamente ci sono voli a quel prezzo e poi le date in cui è possibile. Quindi uno per esempio dice: voglio andare a Ibiza con 50 euro, voglio spendere 50 euro, gli dico: guarda, puoi andare a Ibiza, non so, a Mykonos, Parigi, Barcellona, e ti faccio vedere le date. Disponibile questo. E quindi ha rivoluzionato un po' la mentalità da vacanza o da partenza, si viaggia in base al budget, professor Piga, una novità? Dipende, questo è Si sceglieva la destinazione prima. Tutti guardiamo un po' al portafoglio. Sì. Mi sembra che questo modello che propone il sito, viaggiare, come si chiama? Volagratis.com sia un modello adattissimo appunto per un segmento di mercato che è quello di chi viaggia per turismo e credo soprattutto per un segmento di mercato abbastanza giovane che quindi ha abbastanza flessibilità nelle date, nella disponibilità dal punto di vista del tempo. È esattamente questo perché su cui le compagnie aeree fanno ruotare i loro prezzi, oltre alla disponibilità sul volo e l'elemento di quando si prenota, riuscire a scoprire, a avere un profilo di chi acquista i propri viaggi e quindi cercare di proprio definire, di tagliare, ricucire i prezzi a seconda dei momenti di chi su cui il tipo di consumatore fa quella ricerca. Chiaro, questo è chiaro, ma allora esistono equazioni matematiche comunque per concludere, per capire quando prenotare? L'equazione matematica serve a capire che segmentare il mercato può aumentare o serve ad aumentare i profitti delle imprese e quindi in questo senso l'uso della matematica in economia è assolutamente utile per focalizzare l'attenzione su come poi in pratica intervenire. Grazie a Claudio Piga, docente di economia industriale alla Loughborough University in Inghilterra e grazie naturalmente a Fabio Cannavale, fondatore di volagratis.com. Buona giornata. Ci ritroviamo tra pochissimo con la rassegna stampa e dunque con l'attualità. Una notizia di questi giorni riguarda le staminali e la presa di posizione netta dell'amministrazione Obama sono cruciali, ha dichiarato, per salvare vite umane. Con questo messaggio presenterà appello contro la decisione del giudice che aveva bloccato invece i fondi pubblici per la ricerca sulle staminali embrionali. L'Italia è in ritardo, secondo voi? 24 mattino estate. Ben ritrovati da Irene Zerbini, la lettura dei quotidiani. Con me Deborah Rosciani, a cui do il benvenuto. Ciao Deborah. Ciao, buongiorno a tutti, buona giornata. Berlusconi, Bossi in primo piano, a che punto sarebbero siamo? Scongiurate le elezioni anticipate e si sarebbero messi d'accordo per questo no all'ingresso all'UDC nella maggioranza, e quindi anche questo ancora una volta è il tema che viene posto in primo piano su tutti quanti i giornali, ancora il tema Fiat naturalmente, l'assalto al palco di Maroni ieri sera, ma ti segnalo, incredibile, infatti siamo un po' fuori in questo ormai momento, un po' agitati, diciamo, un po' fuori dagli schemi, eccessivamente. Mi è piaciuta, volevo segnalartela, non ho trovato purtroppo, Irene, scusami, nessuna buona notizia economica, ma mi impegnerò ancora domani, ancora domani in serbo per accontentarti. Ti impegno a generare ottimismo. Sì, però c'è questa storia che arriva dalla Gran Bretagna, dove il premier britannico David Cameron è diventato ancora una volta papà, ha deciso di prendersi qualche settimana di aspettativa per seguire la moglie. Certo, aiuta il fatto che ormai è ancora in vacanza, per cui non ha ancora tutti gli impegni istituzionali, questo probabilmente lo aiuta anche, però c'è questa indagine secondo la quale in Italia questa possibilità non va, perché i permessi per i neopapà in Italia ci sono da 10 anni, sono facoltativi, sono retribuiti al 30% dello stipendio, ma gli uomini italiani non amano molto stare a casa. Solo il 7% ne avrebbe usufruito. Ecco. E poi sono abbastanza risicati, 4 giorni. È un po' diverso. Ah beh, conosci bene la normativa, vedi, si vede che tu sei mamma, io no, quindi ti eri già documentata. Ne abbiamo parlato proprio recentemente, della differenza di mentalità, che poi porta inevitabilmente alla differenza di leggi. Grazie, bene. Deborah Rosciani, ti seguiamo fino in fondo. Grazie. Per la lettura dei a quotidiani. In primo piano. E in primo piano c'è naturalmente ampiamente la politica, su tutti i quotidiani nazionali c'è anche molta economia, perché continua ancora tutto il dibattito intorno a Fiat, al reintegro dei 3 operai di Melfi e quant'altro. Ieri moltissime dichiarazioni da molti esponenti della politica e dell'economia italiana, dal meeting di Rimini di Comunione e Liberazione. Andiamo però per ordine, cominciamo con il Corriere della Sera, che titola: Berlusconi convince Bossi, no al voto, il senatur Macasini resta fuori, i finanziari non possono sostituirci, c'è soddisfazione del Cavaliere dopo il vertice con la Lega, poi c'è Bersani, sono solo chiacchiere sul lago. Su Bersani torniamo tra poco con una lunga lettera che ha scritto al quotidiano Repubblica, poi ci andiamo. Ritorniamo però, rimaniamo al Corriere della Sera. Berlusconi convince Bossi, che ora dice no alle urne e chiude con soddisfazione il vertice sul Lago Maggiore. Si va avanti così senza l'UDC per realizzare il programma di governo. Il leader della Lega, lasciando Villa Campari a Lesa, ha riassunto in questo modo l'esito dell'incontro in cui si doveva decidere la linea futura della maggioranza. Sulle elezioni anticipate Bossi ha affermato: non si fa niente, ma Casini resta fuori, i finiani non possono sostituirci. Il leader del PD Bersani attacca, solo chiacchiere. Poi vi leggo uno stralcio dell'editoriale di Paolo Franchi sulla scommessa, ma gli altri titoli del Corriere sono dedicati intanto all'assalto degli ultra al palco di Maroni a Bergamo. Agenti feriti, il ministro contestato da supporter dell'Atlanta, la festa leghista di Alzano Lombardo, petardi e lacrimogeni, tutto questo per l'introduzione della tessera del tifoso. Di taglio basso, Marcegaglia difende la Fiat, Epifani no, dialogo sui contratti. Se da Marchionne arrivasse un segnale di distensione sulla vicenda di Melfi, questo sarebbe accolto dalla CGIL e dalla FIOM, che hanno già detto di essere pronte a riprendere il dialogo sui nuovi contratti, assicura al Corriere della Sera nell'intervista del Recomarro Guglielmo Epifani. E intanto ieri il presidente di Confindustria Emma Marcegagli ha sostenuto le ragioni della Fiat, poi ve le leggerò più dettagliatamente dalle pagine del Sole 24 Ore. Intanto Sergio Marchionne ha scritto una lunga lettera a Napolitano con il capo dello Stato. Ieri dovrebbe esserci stato un contatto telefonico sia da parte di Marchionne, e un contatto invece che secondo la stampa sarebbe stato fisico tra Marchionne e il presidente della Fiat John Elkann, si sarebbero incontrati. Un altro commento sulla vicenda Fiat ancora una volta porta la firma di Pietro Ichino, il giuslavorista. Caro direttore, la risposta di Giorgio Napolitano ai 3 lavoratori della Fiat di Melfi va letta per intero, e se vi si presta consenso questo non può riguardare soltanto la sua parte più ovvia, cioè l'appello al rispetto della legge e delle decisioni dei giudici, è rivolto a tutti i protagonisti della vicenda. Vi dicevo, volevo leggervi una parte dell'editoriale di Paolo Franchi all'evoluzione appunto delle vicende politiche italiane e all'accordo, alle non elezioni anticipate a cui si sarebbe arrivati ieri fra Berlusconi e Bossi nel vertice sul Lago Maggiore. Bossi desiste dal pretendere un giorno sì e l'altro pure elezioni anticipate in tempi rapidissimi. Il Presidente del Consiglio dal tentativo di imbarcare nella maggioranza l'UDC per colmare i vuoti eventualmente aperti dai fini anni e amici come prima, anzi più di prima. Non è dato sapere però se quali garanzie e PDL e Lega si siano reciprocamente scambiate, né se sia stata messa a punto una qualche strategia per mettere insieme una maggioranza in grado di sostenere, con un minimo di efficacia, il programma dell'esecutivo, processo breve compreso. Anzi, è lecito e persino doveroso nutrire in materia molto più che qualche dubbio generico. Le sorti di governo e legislatura restano incerte oggi proprio come lo erano qualche giorno fa, secondo Paolo Franchi. Vi ho letto proprio questa parte perché invece sulle garanzie che si sarebbero reciprocamente scambiate il manifesto avanza qualche ipotesi e poi ve lo leggo. L'ultima cosa dal Corriere della Sera, la foto dedicata a centropagina a Sean Connery che compie 80 anni. Sean Connery, dice Maurizio Porro, nel suo rifugio alle Bahamas, è la più celebre delle Bond Girls, Ursula Andress, questa è la foto in prima pagina sul Corriere della Sera. La sirena bionda di Licenza di uccidere ricorda, è lui l'unico vero 007, oggi ha ancora più charme di allora. Andiamo avanti con... abbiamo già detto appunto anche dell'intervista di Enrico Marro sul Corriere della Sera a Guglielmo Epifani, ma passo direttamente alle pagine del Sole 24 Ore. La prima pagina è dedicata alle dichiarazioni del presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Ieri dal palco del meeting di Rimini, Marcegaglia difende Fiat. Sulla vicenda dei tre operai di Melfi, la Fiat è in linea con la legge e con la prassi. Al meeting di Rimini, Emma Marcegaglia interviene sul nodo delle relazioni industriali all'indomani delle parole di solidarietà agli operai del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Serve stabilità politica, il governo deve andare avanti e varare le riforme, ha sottolineato la Marcegaglia, accogliendo con favore l'esito del vertice fra il premier Silvio Berlusconi e il leader della Lega Umberto Bossi, che ha escluso il ricorso ad elezioni anticipate e l'alleanza con l'UDC. La battaglia legale fra Fiat e Fiom continua intanto, ricorda il Sole 24 Ore, mentre il confronto sindacati-azienda si sposta sull'attuazione del piano industriale nelle fabbriche italiane. E intanto è forte l'attesa per le parole che l'amministratore delegato di Fiat, Marchionne, pronuncerà oggi al meeting di Rimini. La CEI, i vescovi italiani, intanto critica la Fiat, negata la dignità dell'uomo. Ancora dalla prima pagina del Sole 24 Ore, la descrizione ovviamente di quanto accaduto ieri sui mercati finanziari. Standard & Poor's declassa il debito dell'Irlanda, c'è anche il balzo del PIL turco, ma questo non è bastato a dare fiato ai listini che ieri invece hanno concentrato l'attenzione sulle notizie negative. Le borse hanno concentrato l'attenzione sulle notizie negative. L'incertezza sui debiti pubblici europei torna a dominare i mercati. Ieri l'agenzia di rating Standard & Poor's ha abbassato il voto sull'Irlanda, portandolo da doppia A a doppia A meno. All'origine della bocciatura, le risorse più ingenti di quanto preventivato, necessarie per ripulire le banche irlandesi dai prestiti inesigibili. Nuovi dati negativi anche dall'economia americana, che hanno provocato la quinta sessione consecutiva al ribasso delle borse europee. Da detonatore ha funzionato la notizia del peggiore calo mensile mai registrato nelle vendite di nuove abitazioni unifamiliari negli Stati Uniti. Ma dai mercati anche segnali positivi, l'export fa correre il PIL della Turchia, stimato all'8,9% nel secondo trimestre, continua a crescere l'ottimismo delle aziende tedesche, l'indice IFO è salito in agosto ai massimi da 3 anni. La foto che occupa il centropagina del Sole 24 Ore è dedicato al compleanno 50 anni delle frecce tricolori. Eredi di una lunga tradizione di volo acrobatico militare, le frecce tricolori compiono 50 anni a Rivolto in provincia di Udine. Ci sarà una grande festa l'11 e il 12 settembre. La pattuglia italiana è la più conosciuta grazie ad addestramento e tecnologia. Volevo segnalare anche, oltre sul Sole 24 Ore, che naturalmente ricostruisce quanto ha detto ieri Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, di cui abbiamo già parlato, le parole anche del ministro dell'economia Giulio Tremonti, che ha presentato ieri sempre da Rimini una sorta di decalogo per la crescita con una premessa: occorre riaprire, ha detto a Rimini Tremonti, il cantiere delle riforme a partire dal fisco. La linea di azione, racconta Dino Pesole, l'inviato del Sole a Rimini, che Tremonti immagina deve concretizzarsi già alla ripresa dei lavori Nessun accenno alla crisi politica apertasi con i finiani e il summit mattutino a Villa Campari-Alesa, cui ha preso parte. Per Tremonti, appunto, questa linea di azione passa attraverso una drastica semplificazione di regimi aliquote da sostenere con interventi concreti diretti alle famiglie, al lavoro e alla ricerca. Il tutto nel presupposto della tenuta dei conti, perché se il politico stacca un assegno in bianco, alla fine, ha detto Tremonti ieri a Rimini, il conto lo pagano le famiglie. Andiamo avanti con, vi dicevo appunto rapidamente, vi do subito lettura della prima pagina del manifesto, perché rispetto all'esito del vertice sul Lago Maggiore appunto di ieri fra Berlusconi e Bossi, in realtà di qualche contropartita in questo accordo per facilitare le elezioni si sarebbe parlato. Il manifesto ipotizza che Berlusconi appunto avrebbe strappato a Bossi questa tregua promettendo al Senatur poltrone ministeriali nel settore dell'agricoltura e candidature comunali a Milano. E qui lascio subito il manifesto. In primo piano. E ritorna il primo piano di Radio 24. Ancora buongiorno da Deborah Rosciani, la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Allora, riprendiamo, come vi dicevo, da Repubblica. Berlusconi e Bossi no al voto, la proposta di Bersani. Questo è il principale tema probabilmente del giorno su Repubblica, che ospita questa lunga lettera inviata al direttore Ezio Mauro da Pierluigi Bersani, di cui vi vado a dare lettura di qualche passaggio. Caro direttore, dopo anni di illusione berlusconiana, l'Italia continua a regredire sul piano economico e sociale, si allontana alla luce di ogni parametro dai paesi forti dell'Europa. Nello stesso tempo l'impegno a riformare e a rafforzare le istituzioni repubblicane si sta trasformando in una deformazione grave della nostra democrazia. Ci si vuole trascinare ad un sistema dove il consenso viene prima delle regole, e cioè delle forme e dei limiti della Costituzione, dove si limita l'indipendenza della magistratura, dove il Parlamento viene composto da nominati, dove il governo ha il diritto all'impunità e ad una informazione asservita e favorevole, dove si annebbiano i confini fra interesse pubblico e privato. Il consenso per Berlusconi è ancora largo, riconosce Bersani, ma il rapporto fra parole e fatti e fra promesse e realtà diventa sempre più labile anche nella percezione dei ceti popolari. A questo punto, suggerisce Bersani, per Berlusconi la scelta è fra ripiegare o alzare la posta. Per l'Italia la scelta non riguarda più solo un governo, ma finalmente un'idea di democrazia e società. E qui vado ancora avanti la notizia: rendendoci disponibili oggi ad un governo di transizione, dice Bersani, non cerchiamo né scorciatoie né ribaltoni, sfidiamo piuttosto la destra a riconoscere la realtà e ad ammettere l'impossibilità di mandare avanti l'attuale esperienza di governo e ad introdurre correttivi, a cominciare dalla legge elettorale, che consegnino lo scettro ai cittadini per tornare poi in tempi brevi al voto. Ritorno per un attimo alla prima di Repubblica per segnalare anche che il quotidiano appunto enfatizza ovviamente la guerriglia di Bergamo e gli ultra contro Maroni. Più di 400 ultra dell'Atalanta hanno dato l'assalto ieri sera alla Bergenfest leghista dal Sano Lombardo con fumogeni, petardi e bombe carta, interrompendo il comizio del ministro dell'interno Roberto Maroni per protestare contro la tessera del tifoso. La guerriglia è durata una ventina di minuti, con auto date alle fiamme e un paio di agenti feriti. 5 ultra sono stati fermati. Il reportage in prima di Bernardo Valli, sempre su Repubblica. Pubblica, fra le bombe senza luce né acqua e la guerra infinita di Baghdad. Ieri nelle città irachene c'è stata un'altra ondata di attentati, sono stati almeno 14. Abbiamo adesso la prima della Stampa. No al voto, avanti senza UDC, Bossi dopo il vertice con Berlusconi. I finiani siamo indispensabili per Bocchino, la maggioranza è la stessa, c'è solo un soggetto in più, Casini, sconfitti quelli delle elezioni subito. Fiat, vi dicevo, Marchionne scrive a Napolitano. No, ecco, scusate, mi sono sbagliata. Allora, prima avevo ricostruito male. Anche la Stampa segnala come John Elkann, il presidente di Fiat, ha parlato al telefono con il capo dello Stato, con un colloquio che si sarebbe rivelato cordiale e chiarificatore. Un intervento in prima pagina sulla Stampa del sindaco di New York, Michael Bloomberg. Vi ricordate le polemiche intorno alla costruzione della moschea nell'area di Ground Zero, quella dove l'11 settembre del 2001 vennero abbattute le torri gemelle? E allora su questo interviene il sindaco di New York. Che la moschea difende la libertà, l'America è una nazione di immigrati e nessun posto spalanca le porte al mondo più di New York. Gli Stati Uniti sono la terra delle opportunità e nessun altro luogo offre ai suoi abitanti più occasioni per inseguire i sogni che New York, perché l'America è la culla della libertà, nessuno la difende con più ardore o è stato attaccato con più ferocia a causa della sua libertà, proprio come New York. E quindi in questa maniera il sindaco difende il progetto della costruzione della moschea. La foto che invece risalta in prima pagina sulla stampa è quella della supernave commerciale SFC Baltica, una petroliera russa carica di gas in passaggio verso la Cina, una iniziativa importantissima con il quale si apre il passaggio a nord-est. Mosca lancia il passaggio a nord-est, questa super petroliera in viaggio verso la Cina ed è la prima nave commerciale che affronta questa rotta. La prima del Messaggero, Berlusconi e Bossi no al voto, i centristi, teatrino finito, i finiani, garantiremo la fiducia sul programma, l'intesa nel vertice tra PDL e Lega, il governo va avanti ma senza l'UDC. A centropagina il Messaggero segnala intanto questa vicenda che ci ha anche un po' sconvolto, di questa donna che è stata uccisa da una medusa a Cagliari, è accaduto alla spiaggia di Porto Tramazzo, appunto in Sardegna. Il referto dei medici parla di arresto cardiocircolatorio dovuto ad uno shock anafilattico. La donna, una donna di 69 anni, è stata punta in acqua da questa medusa, ha raggiunto la riva, si è sentita male ed è morta nel giro di pochissimi minuti. Una reazione anafilattica, dicevo, sarebbe stato il primo caso nel Mediterraneo. Si dedica anche alla scuola, il Messaggero in prima, bocciato chi fa più di 50 assenze, massimo dei crediti con la media del 9, via al nuovo regolamento, ed è polemica i presidi ai professori, ora usate tutti i voti. Scuola, comincia l'anno del rigore, fra le novità la stretta sui crediti e sulle assenze, per ottenere il massimo dei punti utili per la maturità sarà necessario avere la media del 9, l'8 non basterà più, puniti anche gli studenti che saltano le lezioni, chi accumula oltre 50 giorni di assenza rischia la bocciatura, solo in casi eccezionali sono previste deroghe, ma in generale chi non rispetta il limite massimo viene escluso, in 1000 casi delle medie, in 1000 classi delle medie saranno introdotti da quest'anno anche due test invalsi, uno a settembre e l'altro a fine anno scolastico. Avevamo ancora qua il Messaggero con la storia della donna punta dalla medusa in Sardegna, poi un altro drammatico e mortale purtroppo incidente sul lavoro che si è verificato a San Ferdinando di Puglia, in tre cadono in una cisterna, uno muore, gli altri estratti vivi sono scivolati mentre cercavano di aiutarsi a vicenda, e questa è un'altra strage silenziosa che continua, della quale si continua a parlare, ma a quanto pare è una tendenza che non riesce ad arrestarsi. Andiamo alla prima pagina del Giornale, che imperturbabile prosegue la sua battaglia contro la famiglia Tugliani, cioè la famiglia della compagna del presidente della Camera Gianfranco Fini. Il titolo di oggi: le dichiarazioni dei redditi dei Tugliani ora sono milionari, ma nel 2005 Elisabetta denunciava al fisco quasi 34.000 euro lordi, il padre qualcosa come 26.000, la madre zero, come hanno fatto? È una domanda, non è un linciaggio, come finge di credere la finiana. E doppio pesista Perina, chi è Flavia Perina? Il direttore del Secolo d'Italia, che ha lanciato nei giorni scorsi un appello alle ministre Mara Carfagna e Giorgia Meloni affinché si oppongano al trattamento che il Giornale ha riservato alla compagna del presidente della Camera, e a questo si dedica proprio oggi il nuovo editoriale di Vittorio Feltri, che parla di Flavia Perina come di un pubblico ministero strabico che oggi si scandalizza del coinvolgimento mediatico della Tugliani, ma non aprì bocca per difendere la Carfagna quando poco più di un anno fa fu massacrata da vari quotidiani perché avvenente, quindi sospettate di aver ingolosito con le proprie grazie il premier. La prima pagina di Libero: la pulizia etnica di Fini, tagliatore di teste, licenziamenti. Al Giornale di AN, Maurizio Belpietro oggi si dedica a questo, per far posto solo ai fedelissimi, redattrice in maternità cacciata due volte, il giudice la reintegra ma il Secolo ignora il verdetto. Questa giornalista, che si chiama Priscilla Del Ninno, avrebbe scritto al Libero, così sollecitando un po' l'attenzione sul suo caso e soprattutto chiedendosi perché, dopo l'intervento che il presidente della Repubblica Napolitano ha fatto sui tre operai di Fiat e di Melfi, non lo fa anche per esempio per il suo caso, e quindi Libero cavalca questa storia. La prima pagina dell'Avvenire: il governo si va avanti, l'UDC disponibili a votare, quello che fa bene al paese, e anche l'Avvenire naturalmente fa un dettagliato resoconto sul vertice PDL Lega di ieri, Bossi gelido con i centristi e Confini tratto io, Bersani, leader del PD, non bastano due chiacchiere sul lago, vengano in Parlamento. Avvenire ne propone in prima pagina anche una dettagliata inchiesta sull'emergenza acqua nel nostro paese, ma soprattutto in Calabria. Malfunzionamento di acquedotti, reti logore e cattiva gestione delle risorse idriche, anche da parte dei privati, mettono in ginocchio il paese, soprattutto le regioni del sud. In testa alla Calabria, da Ferragosto a secco d'acqua per colpa dell'inquinamento, la situazione è più critica a Vibo Valentia, dove i rubinetti sputano fanghiglia rossastra e il sindaco ne ha vietato l'uso anche per l'igiene personale, ma a Reggio Calabria e nelle località turistiche più rinomate della regione le cose non vanno meglio. È ritornata vicino a me Irene Zerbini, io ho terminato la mia rassegna stampa di oggi, cara Irene. Ma torni domani. Sì, sì, torno domani mattina. Domani. Ti prometto anche con una bella notizia economica. Ultimo giorno in questo ciclo sì. di rassegna stampa. Grazie a Deborah Rosciani, ti ritroviamo a Salvadanaio. Mi ritrovate a Salvadanaio oggi alle 12, parliamo di nuovo di mutui, sta partendo il fondo di solidarietà del governo per aiutare le famiglie in difficoltà. Dovrebbe partire il 2 settembre, credo che ci sarà qualche slittamento, però spiegheremo alle famiglie che ne hanno bisogno come fare per attivarlo e usufruire. Ottimo, noi invece ci ritroveremo alle 8:15 con Tetsuro Akanega Kubo, il corrispondente in Italia per il quotidiano giapponese Sakai Shimpo, per il nostro appuntamento con i corrispondenti stranieri. E poi ancora alle 8:30 in bianco nero parleremo di staminali, sono cruciali per salvare vite umane, anche le staminali embrionali. Con questo messaggio l'amministrazione Obama ha deciso che presenterà appello contro la decisione di un giudice che aveva bloccato invece i fondi pubblici per la ricerca proprio su queste linee di staminali. Questi embrioni vengono creati durante la fase di routine delle cure contro la sterilità, cioè si fecondano simultaneamente più ovuli e in seguito vari ovuli fecondati vengono impiantati nella madre. I rimanenti vengono congelati nell'eventualità in cui il primo tentativo di fecondazione non vada a buon fine. Se invece ha successo, la coppia può decidere se donare questi embrioni inutilizzati al fine della ricerca oppure eliminarli, però in Italia è vietato utilizzarli. Ben ritrovati ancora una volta da Irene Zerbini, l'appuntamento con i corrispondenti stranieri che vedono luci, ombre, sfumature che a volte all'occhio italiano sfuggono. E per questo oggi abbiamo disturbato Tetsuro Akanega Kubo. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Abbiamo sfoggiato un giapponese impeccabile, non andiamo oltre il buongiorno. Senti Tetsuro, sì. Tu scrivi per il quotidiano politico-economico Sakai Shimpo di Tokyo. Sì, sì. Qual è l'ultimo articolo che hai mandato dall'Italia? Ho mandato quel cambio della legge stradale per soccorso per animale, reato per omissione di soccorso per animali che investe. Ma l'articolo dall'Italia sul reato di omissione di soccorso agli animali, a che pagina è stato pubblicato? Questa era di quel giornale economico Nikkei, la pagina della Life, quindi la vita, quindi vita quotidiana dei giapponesi o in tutto il mondo. Seguono con interesse i giapponesi le vicende italiane? Sì, sì, certamente, ma adesso, a parte il mio giornale che interessa la politica, ma gli altri interessa molto di più gastronomia e cultura e soprattutto anche gli scavi, eccetera, eccetera. E quanti sono i giapponesi che ogni anno vengono in Italia? Intorno a penso 300.000 o di più. E gli italiani che vanno in Giappone? Ma sono, penso, non so se è stato 30.000, questo non mi ricordo il numero, ma mi sembra intorno a 30.000 l'anno scorso. Quindi i giapponesi che vengono in Italia sono 10 volte di più degli italiani che vanno invece nel tuo paese. E guarda, in un caso la meta preferita dei giapponesi in Europa è l'Italia, solo che vanno più facilmente a Parigi, eccetera, perché sono ben forniti, no? Come si dice, sono più preparati per ricevere turisti giapponesi. Cosa manca all'Italia per ricevere i turisti giapponesi? In cosa dovrebbe attrezzarsi? Penso che l'informazione che manca di più. Esiste anche un cattiva nomina che io non dico sempre che non è così, ma in ogni caso di viaggiare da soli e hanno paura. Hanno timore per la sicurezza di essere derubati, immagino, soprattutto. Soprattutto io penso che mancanza di assistenza dopo il furto, eccetera, da parte delle autorità italiane. no? Viene derubata a Roma, deve andare a questura per fare denunciare perché manca il passaporto, fa fare fila per 3 ore prima di fare la denuncia, allora rimane male, no? Se ne parla, si scrive? Sì, se ne parla, poi nonostante tutto vengono e ritornano perché vogliono tornare in Italia, quindi ha un fascino certamente l'Italia. Dove vanno esattamente? Ultimamente molto vanno giù in Sicilia. E questo grazie anche ai tuoi articoli, perché tu hai scritto molto sulla Sicilia. Ah sì, sì, avevo scritto molto, ma non solo questo, perché non so, i siciliani con i giapponesi hanno un feeling, vanno d'accordo più facilmente. E poi piacciono i sapori forti dell'isola, hai ricordato tu in un tuo articolo le olive, le arance rosse. Poi certamente tutte queste magna grecia eccetera interessa molto ai giapponesi, tanti scrivono come si è trovato bene o male eccetera eccetera. Se tratta male un turista, come è capitato una volta a Roma, quel ristorante che ha fatto pagare 700 euro a pranzo, e questi girano proprio il giro di pochi giorni, gira tra tutti i giapponesi che interessano. Quindi bisogna stare molto attento a trattare i turisti, non tanto noi giornalisti, ma bisogna trattare bene tutti quanti. Si scrive, ci si scambia su questi blog e non solo, delle opinioni che poi rimangono radicate ovviamente, in chi le legge si scelgono altre mete. Sì, sì, purtroppo. Io non è che certamente scrivo solo di questo, adesso certamente è interessante seguire la politica italiana in quanto somiglia tanto anche alla politica giapponese. Esatto, ci sono dei punti di contatto, quali sono? Il Giappone è avvenuto l'anno scorso di questo periodo, prima volta dopo guerra, cambio del governo. La prima volta dal dopoguerra c'è stato un cambio al governo? C'è cambio al governo, maggioranza del livello democratico, coalizione con democratici, socialisti, eccetera. Solo che, dato che non ha mai avuto il governo in mano, sta cedendo tutto. Cioè, erano dilettanti, quindi sta sedendo delle cose come si noi voleva mantenere tutto quello che ha promesso l'elezione, che qua era quasi impossibile, e quindi ha dovuto dimettere il primo ministro a giro di un anno, perché no, ma almeno in Giappone quando non si riesce a mantenere la promessa che ha fatto all'elezione si dimette, ma qui no. Questa è forse la differenza. Ci sono grandi differenze, come sai, nello stile di vita. Da quanti anni vivi in Italia? Io sono San Paese da 77, quindi ormai. Quali sono gli elementi che ti stupiscono ancora? Una parte, con fronte ai giapponesi, gli italiani non hanno senso civico, cosiddetta, come si dice, di comunità. Ancora adesso, cosa dello Stato, del comune, sono affari loro, che non si riguarda, quindi i giapponesi si nota, prima cosa, è come buttano sigarette per terra, le carte eccetera, quello che si nota primo. Una cosa che gli italiani pensano, poi dentro la casa, pulitissimo, bellissimo, molto più bello delle case giapponesi. Invece, appena esce fuori, troviamo le carte buttate per terra. Io questo per il giapponese è una cosa che forse non si capisce nemmeno. Quindi c'è un'enfasi su ciò che è privato e quindi grande attenzione, grande cura, magistralmente tenute anche le case, e poi ciò che è pubblico, già a cominciare dalla facciata o dal marciapiede di fronte alla casa, viene trattato come terra di nessuno, e questa è una cosa che ancora ti colpisce. Poi gli italiani sono molto tolleranti, se qualcuno butta per terra, in Giappone interviene subito, guardi, questo non deve fare. Invece qui, prima di tutto, forse abbiamo paura di dire queste cose qua, ma è molto tollerante. Poi in Italia si dice che fatta la legge trovato l'inganno. In Giappone è molto più severo, non è solo autorità, ma i giapponesi stessi denuncierebbe subito se vede qualcosa del genere. Invece qui è, non so se ha paura, ma io penso che è tollerante, o come ha detto prima, quello che faccio io sono affari altri, non mi impiccio. Questo è forse indifferente, no. Oltre che tollerante, me ne freghista. Sì, questo sì. Poco senso civico, poco senso del costruire insieme una comunità. Se posso dire, quello che mi stupisce di più è, con tutto con questo, Italia, economia, no, sì, stiamo tutti male, ma non sta così tanto male, e va avanti lo stesso. già da 20 anni parla sempre di crisi, ma l'Italia è uno dei paesi che sta meglio tra questi paesi sviluppati. Quindi questo ancora non ho capito come lo Stato Italia, come Italia paese, va avanti. Meglio del Giappone? Dal punto di vista, come si dice, psicologico, meglio del Giappone sicuro. Poi in realtà il Giappone non sta così male, ma non so, forse è colpa del giornale che parla sempre del pessimismo, invece voi avete un primo ministro che dice che in Italia non esiste che crisi economica, quindi forse anche per questo che influisce per la psicologia della gente. Ma non è che l'Italia sorrida o che gli italiani siano molto ottimisti ultimamente. Non ottimisti, ma anche le vacanze eccetera vanno abbastanza lungo. Quanti giorni di vacanza ha un lavoratore giapponese in media? L'anno scorso era media era 8 giorni. In un anno? In un anno. Ferie hanno 20 giorni, ma hanno preso 8 giorni. Questa è la statistica giapponese dell'anno scorso. Pur avendo la possibilità di prenderne di più? Sì, sì. E perché? Perché in genere ha paura di quando ritorna non trovo il posto, oppure dato che manca una persona e quindi altri colleghi devono lavorare di più, in questo senso non vanno. Quindi anche per responsabilità verso i colleghi che potrebbero essere in difficoltà. Sì, sì, questo è tanto, sì. Questa è una lezione da imparare. E quali altri elementi del Giappone importeresti in Italia, Tezzuro? Io penso che prima di tutto applicare la legge come deve, questo è il punto principale. L'osservanza delle regole, poi non solo sì, fare le leggi ma applicarle. Sì, sì, perché a Roma ha fatto delibera che chi porta a spasso il cane deve portare sacchetta per prendere feci, no? Sì. Ma io non vedo nessuno che porta, o quasi pochissimo, poi non è che il vigile fa controllo di questo, no? Grazie a Tezzuro Akanegakubo, buona giornata Tezzuro. Grazie altrettanto. E l'avete sentito, il corrispondente di Shakai Shimpo in Italia per raccontarla ai giapponesi, naturalmente notando ciò che cozza con quello che è un paradigma culturale o un modello di vita. Rientra regolarmente nello stupore dei corrispondenti la lunghezza delle vacanze che si prendono gli italiani. In altri segmenti del mondo è un lusso che nemmeno i manager o le classi dirigenti si possono permettere, per, come avete sentito, anche la paura che al ritorno dalle vacanze il posto di lavoro non esista più, la competitività eccessiva che cancella anche qualcosa che invece in Italia si dà per scontato, e per, avete sentito invece la sottolineatura del giapponese, non danneggiare, non rendere impossibile la vita di chi rimane in ufficio togliendo il proprio contributo per aiutare i colleghi. E ancora una volta l'attenzione verso gli animali intesi come i cani che si portano a spasso sui marciapiedi, e dunque si dovrebbe essere responsabili anche dei loro escrementi, un elemento che è tornato nel racconto, nell'osservazione di diversi corrispondenti, e nel caso del giapponese la legge che stabilisce che il cane ferito in un incidente stradale o al bordo della strada merita soccorso proprio come un essere umano, altrimenti si incapperà in multe e sanzioni, e questo si è guadagnato un titolo sulla stampa giapponese. Ne abbiamo incontrati tanti in questo agosto, ne abbiamo incontrati altri nell'edizione estiva del 2009, ed è incredibile, ci segnalano gli ascoltatori, come pur provenendo da paesi e culture diverse, spesso si soffermino su cose simili. La mancanza di senso civico che ritorna costantemente nelle osservazioni anche di coloro che vivono in Italia ormai da 30 anni. La mancanza di voglia di fare un passo indietro per prendersi cura di ciò che è collettivo, può essere il cortile di casa, il parco, il problema del verde, la scuola, come i grandi temi. E possono provenire dall'Asia, come il nostro amico giapponese di questa mattina, dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, possono venire dall'Argentina, dagli Stati Uniti o dall'Europa, tutti hanno puntato il dito su quel tipo di piaga. Ne incontreremo un altro domani mattina e poi finirà il ciclo. Ci fermiamo per ora perché vogliamo tornare tra poco con il sondaggio. L'Italia è in ritardo sulla ricerca sulle staminali. Siamo coscienti, tra l'altro, di affrontare un tema complesso, un referendum che nel 2005 chiedeva di rimuovere i limiti alla ricerca su staminali embrionali allo scopo terapeutico per aiutare i malati con patologie genetiche, ha visto un'affluenza bassissima che di fatto ha reso inutile anche la consultazione. Parteciparono il 25,9% degli aventi diritto al voto. Siamo convinti comunque, sullo stimolo anche di quanto fatto dall'amministrazione Obama, che di questi temi si debba parlare, e cercheremo con l'aiuto dei nostri ospiti anche di capire cosa c'è in gioco in questa discussione. Intanto Obama ha detto si va davanti sulle staminali, anche embrionali, sono cruciali per salvare vite umane, un messaggio forte, chiaro, onesto. Qualcuno può anche non essere d'accordo e su opinioni discordanti ci soffermeremo anche noi, in bianco o nero. Bentornati insieme, ancora un saluto da Irene Zerbini. Staminali e staminali embrionali, e si cercherà naturalmente, con opinioni diverse comunque legittime e rispettabili, di avviare una discussione. Da una parte chi difende la sacralità dell'embrione, che dunque non va toccato, non va scomposto, su tesi filosofiche che alcuni considerano fragilissime, e dall'altra invece chi dice la cura, la terapia deve andare avanti soprattutto perché può avere degli effetti benefici positivi su persone che stanno attraversando per patologie genetiche delle sofferenze molto molto grandi e sono addirittura in alcuni casi immobilizzati e potrebbero non esserlo. Ne discuteremo tra poco con i nostri ospiti. Intanto vi abbiamo chiesto: Obama dice avanti sulle staminali e l'Italia è in ritardo? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Il numero di telefono 800 24 00 24 per i messaggi SMS 349 238 6666. Comincerei subito con la professoressa Elena Cattaneo. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Docente di farmacologia all'Università Statale di Milano e direttore del Centro sulle Staminali. Dobbiamo chiarire degli elementi per chi insomma non si occupa di questo nell'attività di tutti i giorni. Voi ricercatori volete fare ricerche sulle staminali embrionali. Cosa sono? Sono cellule immature che si derivano da un embrione, una blastocisti composta da pochissime cellule, quindi da queste blastocisti e da questi embrioni si derivano cellule staminali embrionali. L'interesse su queste cellule è dovuto al fatto che queste sono un po' la madre di tutte le staminali, cioè se contengono tutti i segreti che le trasformano poi nei 250 tipi di cellule specializzate del nostro organismo. E noi dobbiamo far progressi anche sulle linee telefoniche però in Italia, quindi la riprenderemo tra poco. Mi scuso con la professoressa Cattaneo. Buongiorno ad Armando Massarenti. Buongiorno. Armando è autore di un libro, si intitola Staminalia, ed è responsabile della pagina Scienza e Filosofia del supplemento domenicale del Sole 24 Ore. Dunque Armando, stavamo parlando delle cellule staminali embrionali. Sì. Dove sono, dove si trovano? Ecco, si trovano, come diceva poco fa la professoressa Cattaneo, nella blastocisti, e sono preziose proprio per quello che stava dicendo, cioè che sono, come dire, delle cellule bambine che, come il professoressa ha detto varie volte con una immagine efficace, non hanno ancora deciso che cosa fare da grandi, quindi hanno tutte le potenzialità per diventare le diverse cellule di tutto il corpo. Allora, cioè sono interessanti per quello proprio, perché non sono ancora, esatto, differenziate. Io mi scuso anche per la mia terminologia poco accurata forse, ma sì, sto cercando di rendere accessibile anche a tutti noi che non abbiamo speso ore in questo campo di ricerca sui campi, il senso del problema. Sì, ma io infatti come vengono create queste cellule embrionali? Mi scusi, Massarenti. Come, scusi? Come vengono create? Cioè, dove le troviamo? Questi ricercatori chiedono di poterci lavorare. E sono a disposizione queste cellule? Ma diciamo che appunto si trovano in natura, tra virgolette, cioè nella blastocisti, che però non è un vero e proprio embrione, non è davvero già un individuo, come invece si tende a dire, perché la blastocisti può diventare anche per esempio due individui, oppure può essere facilmente distrutta, cioè le potenzialità che diventi davvero un individuo sono abbastanza limitate, quindi vari argomenti che la definiscono già come una persona che addirittura avrebbe dei diritti di carattere morale e persino giuridico sono abbastanza esili da questo punto di vista. Ecco, dopodiché da quelle cellule si traggono delle linee che poi servono per la ricerca. C'è un grande scienziato che di Madison, americano, del Wisconsin, che nel 98 ha appunto permesso di avere delle cellule staminali embrionali disponibili per la ricerca, cioè che mantengono delle loro caratteristiche stabili tali per poter essere studiate. Naturalmente quello che io credo che se poi daremo di nuovo la parola alla professoressa Cattaneo va sottolineato è che siamo molto agli inizi della ricerca e che questo però è un buon argomento per farla, non per disfarsene come molti dicono. Siamo molto agli inizi e quello che ci interessa di più è appunto conoscerle queste cellule staminali, perché noi abbiamo capito la loro potenzialità, ma non sappiamo ancora abbastanza. E allora, non abbastanza per parlare di possibilità di miracoli, cioè questi sono infatti elementi che vanno sottolineato, Massarenti ha fatto benissimo. Ci scrivono gli ascoltatori, ci sono però malati di SLA che girano il mondo e spendono fortune, italiani naturalmente, per cure con cellule staminali che in Italia non si fanno, ci dice Damiano da Roma, questa è una vergogna. Professoressa Cattaneo. Ma bisogna vedere, mi sente adesso? Sì, abbiamo sempre un disturbo di fondo, ma sì. Parli, ci dica, è importante. Sì. Bisogna vedere insomma di che cure si tratta e quali sono le evidenze, insomma, diciamo che così, cioè, il viaggio e la speranza dei miracoli cioè, sono più che leciti, cioè, nelle persone ovviamente che hanno bisogno, però insomma, bisogna stare attenti ecco, a non affrontare viaggi che non hanno nessuna possibilità di ritorno, quindi quali sono le evidenze che all'estero vi siano delle terapie che noi non possiamo avere, insomma mi sembra un po' strano questo. Quindi se si sta parlando del turismo delle staminali, cioè il fatto che in Cina, in Thailandia o magari anche in Europa esistano enti che senza prove offrono delle cure o delle ipotesi di cure, ecco, su quello è un altro argomento, non ha niente a che fare con le staminali embrionali. Forse, dottoressa, io mi permetto di spezzare una lancia a favore all'ascoltatore che non conosco, si voleva sottolineare però la contraddizione. Anche voi ricercatori italiani vivete in una contraddizione, cioè non potete lavorare su queste cellule embrionali italiane, diciamo così, ma in realtà nei vostri piattini, nei vostri laboratori lavorate su cellule staminali embrionali importate o no? Cioè, esattamente, quindi se torniamo al discorso embrionali sì e embrionali no, la legge italiana permette ovviamente, se no non lo faremmo, di lavorare su queste cellule importate. E come stavo dicendo prima, ovviamente queste cellule sono interessanti, sono importantissime per diverse strategie di ricerca perché esse contengono tutti i segreti che formano poi il nostro corpo, quindi noi siamo interessati a capire quei segreti, siamo interessati a capire come fa quella cellula staminale a diventare neurone piuttosto che cuore, perché se capiamo questo forse riusciamo a capire anche perché si ammala, no? La cellula neuronale o la cellula del cuore. Quindi è tutto, ovviamente è un campo enorme di conoscenza che si è aperto con queste cellule e diciamo anche che queste caratteristiche di potenza, di potenzialità così particolare l'hanno solo queste cellule. E sai, poi noi siamo scienziati e siamo abituati a vivere di evidenze, non di parole nell'aria, in laboratorio. Professoressa, ma se non si usassero queste cellule embrionali per la ricerca, torno indietro per spiegare dove si trovano qua in Italia, che destino avrebbero? Perché non abbiamo ancora detto che questi embrioni vengono comunque creati durante la fase di routine delle cure contro la sterilità. Esatto, allora le cellule staminali embrionali su cui lavoriamo derivano da embrioni blastocisti, quindi, che sono sovrannumerari, sono lo scarto delle tecniche di fecondazione in vitro, quindi sarebbero destinati alla distruzione. Ovviamente sto parlando di quei paesi in cui questo è possibile. In Italia non è possibile per la legge purtroppo fecondare più di 3 embrioni per volta, quindi in Italia gli embrioni sovrannumerari non esistono più dal 2004, ma ce ne sono 30.000 congelati nei vari congelatori d'Italia, destinati comunque alla distruzione, e che potrebbero, quali si potrebbe ricavare cellule, essere utili per la ricerca, secondo quanto affermano i ricercatori. Voglio dare il buongiorno e il benvenuto anche al presidente onorario del Comitato Nazionale di Bioetica, professor Francesco D'Agostino, buongiorno. Buongiorno a lei. E, ha sentito fino a questo punto le argomentazioni? Ho sentito tutto. L'informazione che è stata data agli spettatori è ancora lacunosa, ma non voglio accusare nessuno. Contribuisca a colmare questa lacuna, la invito, prego. Sì. Intanto non si è fatto cenno al fatto che esiste un'alternativa interessantissima alla ricerca sulle staminali embrionali, ed è la ricerca sulle cosiddette staminali adulte, che non provengono dalla distruzione, o meglio dall'uccisione di embrioni umani, ma vengono prelevate senza alcun problema bioetico dal corpo di individui, di persone adulte. E in Italia siamo all'avanguardia nell'ambito della ricerca sulle staminali adulte, al punto tale che qualcuno ha posto sensatamente la domanda: dato che non riusciremo mai a raggiungere gli Stati Uniti o l'Inghilterra sul piano della ricerca sulle embrionali, perché non ci specializziamo in una ricerca come quella sulle staminali adulte, che invece viene trascurata nei paesi anglosassoni? Su quest'altro piano forse sì che l'Italia potrebbe dare qualche contributo d'eccellenza, ma il vero cuore del problema non è questo. Perché discutiamo della ricerca sulle staminali e perché, per esempio, chiedete a me, che non sono uno scienziato, un parere in merito? Perché il problema non è solo scientifico, è soprattutto un problema bioetico. Il nostro problema è semplicemente questo: è lecito fare sperimentazione scientifica distruggendo vite umane, o più in generale, qual è il limite che dobbiamo porre alla sperimentazione scientifica quando ha per oggetto gli esseri umani? Io ricordo che quando si fece la grande convenzione di Oviedo sulla bioetica, si stabilì che non si doveva mai creare un embrione umano a soli scopi di ricerca. Oggi la professoressa Cattaneo dice: noi usiamo gli embrioni sovrannumerari della fecondazione artificiale, ma la Cattaneo sa quanto me che nei paesi anglosassoni comprano ovociti da donne disposte a venderli per fecondarli in provetta e creare ad hoc embrioni umani per utilizzarli e per distruggerli a scopi di ricerca scientifica. Francesco D'Agostino, professore, allora a questo punto le devo fare una domanda. Lei dunque non è convinto in pratica che dando la possibilità ai ricercatori di studiare, di continuare a ricercare, ci si fermi all'utilizzo di queste cellule embrionali che vengono create durante la fase di routine delle cure contro la sterilità? Cioè, lei avesse una garanzia in questo senso, sarebbe favorevole? Non è che non ne sono convinto io, è un dato di fatto. Un dato di fatto in Gran Bretagna, per esempio. No, ma nei paesi che sono all'avanguardia della ricerca biologica, perché l'Italia, diciamoci la verità, non è il paese di punta in queste ricerche. I paesi di punta sono Stati Uniti e Regno Unito. E negli Stati Uniti e nel Regno Unito non utilizzano più gli embrioni sovrannumerari che sono stati creati ad altri fini, sono già stati manipolati, sono stati congelati e poi scongelati. Vengono creati embrioni nuovi, provetta, esclusivamente a fini di ricerca. Cioè la vita umana è diventata in quei paesi oggetto di sperimentazione distruttiva, perché lavorare sugli embrioni significa ucciderli. Va bene, D'Agostino, la sua posizione è molto chiara. Ci ha chiesto perché l'abbiamo interpellato, è un docente praticamente di filosofia, perché è anche un problema etico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Ancora buongiorno da Irene Zerbini. Abbastanza univoca la posizione dei nostri ascoltatori, stanno seguendo anche attraverso SMS il dibattito sulle embrionali e se il mondo va da una parte, chiedono, perché noi dovremmo andare dall'altra per questioni fondamentalmente religiose che non riguardano tutti gli italiani. E un altro da Treviso, Fabio: la storia stessa della medicina è fatta su esperimenti sull'uomo, cosa vogliamo fare? Tornare a morire per un raffreddore? E su questo tono, Italia eterno medioevo, ci segnala un altro ascoltatore, sono un po' i messaggi che arrivano. Andiamo a Napoli, buongiorno a chi ci segue da lì. Armando, dica. Salve, buongiorno. Senta, io mi occupo di ricerca bioetica e non sono un biologo, per cui magari il mio discorso potrebbe essere, come dire, un po' così, un po' teorico, va bene, però mi aggancio a quello che diceva Armando Massarenti. Allora, intanto la potenzialità di questo embrione che diventi individuo è una posizione, anche quella teorica, se vogliamo, sulla quale poi si costruisce il diritto, secondo Massarenti, di intervenire sulle cellule embrionali per fare, come dire, il progresso della medicina e quindi della salute dell'uomo. Ma anche quella è una posizione teorica, come quell'altra che dice no, l'individuo è già, l'embrione è già individuo. Perché? Perché la generazione di un nuovo DNA di fatto già dà luogo a un nuovo individuo. Tutti noi, prima di diventare adulti, siamo stati embrioni e abbiamo il nostro DNA che è esclusivo. Quello che, secondo la posizione tipicamente, diciamo così, cristiana, e in particolar modo quella cattolica, dà, come dire... Capito. Lei da che parte sta, Armando? Allora, io sono dalla parte di quelli che dicono, ragioniamo della possibilità che ci sia il diritto eventualmente di intervenire sull'embrione se, come dire, in qualche modo, diciamo, è possibile considerarlo come una specie di donazione degli organi, di espianto di organi, visto che anche sui neonati, diciamo, in qualche modo si può intervenire. Grazie, quando, grazie Armando. E dunque l'altro Armando con noi, Armando Massarenti, autore di Staminalia, cosa risponde? Ma dunque, io ho scritto un libro apposta per mettere un po' i puntini sulle i su tutte le questioni che lo stesso professor D'Agostino ha trattato poco fa. Devo dire che la versione che do io di come stanno le cose è molto diversa da quella che da lui, ma soprattutto cerco anche di smascherare alcuni eccessi della comunicazione che si sono avuti e che lui stesso sta ripetendo. Cioè, non si può parlare di uccisione di esseri umani quando si parla di ricerca sulle cellule staminali embrionali. Cioè, questo è un linguaggio che io giudico estremistico, e così, e tale lo giudicano tutti gli scienziati che lavorano in questo campo, che non sono dei criminali. Ecco, allora questa criminalizzazione della scienza è già un primo punto. Poi esiste un'altra questione: sulle cellule adulte non è vero che non pongono problemi etici, pongono un problema, tra l'altro, che riguarda, tra i tanti, che riguarda proprio la comunicazione. Allora, perché alcuni dei nostri ascoltatori pensano che sia bene andare a fare questi viaggi della speranza in giro per il mondo? Perché in realtà esiste tutta una comunicazione proprio sulle cellule staminali adulte che dice che si curano già tipo 80-90 malattie qui e ora, ecco, cioè sono già pronte le cure e si possono assolutamente curare. Ora, questo è assolutamente falso, perché ci sono solo due o tre casi in cui questa cosa ha una qualche plausibilità, ma questo argomento è stato usato proprio da coloro che avversano le, per motivi ideologici e, come ha detto qualche ascoltatore, religiosi, avversano le cellule staminali embrionali, dicendo le staminali adulte curano qualunque cosa, sono avantissimo nelle cure, le cellule staminali embrionali invece non curano assolutamente niente. Questo è l'argomento che è stato usato anche contro la disposizione di Obama dell'anno scorso, dicendo ma le cellule embrionali sono inutili, ci concentriamo. Non hanno curato adulte niente finora, è stato finora, detto, ma, sì. Sì, a parte che non è esattamente vero, ma come lo è per quanto riguarda le adulte, per cui si è detto e si è titolato nei giornali religiosi i miracoli delle staminali adulte, sì, senza nessun pudore. Ora, questa cosa pone un problema bioetico, perché inganna crudelmente i pazienti. Cioè, i pazienti che leggono questi titoli, poi leggono un elenco di cure pronte, qui sì, possono ora, credere magari nel miracolo, e esatto, si alimenta una contraddizione. Grazie, Massarenti. No, non solo una contraddizione, si alimentano un inganno reali di persone che poi, sottoponendosi a queste cure, soffrono e si può un inganno ulteriore. Ma professoressa Cattaneo, dunque non ha curato niente, è stato detto. Anche il cancro non è stato curato ancora. La ricerca serve proprio per andare in quella direzione. Questo non deve essere un motivo per fermare la ricerca sul cancro. Però tornando a quello che ha detto appunto Francesco D'Agostino, insomma anch'io devo colmare un po' le sue lacune, insomma è ovvio che parlando secondi alla radio insomma non si può essere esaustivi e completi, no, senza dubbio, quindi, però si ha il merito almeno di aprire una discussione, di allargare alcuni elementi importanti. Cioè, diciamo che ovviamente c'è una ricerca che va avanti sulle staminali adulte e deve continuare ad andare avanti, io mai mi sognerò di dire che non si debba lavorare su quelle cellule, anch'io stessa in laboratorio le ho, quindi lavoriamo su alcune adulte e su staminali embrionali, ma perché appunto siamo interessati alle embrionali? Perché fanno cose che le staminali adulte non fanno. D'Agostino ha detto che sono alternative. Capisce, io questo lo vedo, non è che appunto parlo nell'aria, no, io ho un piattino con dentro cellule staminali embrionali e un altro con staminali adulte, cerco di far differenziare queste cellule per ottenere i neuroni che degenerano nella patologia che sto studiando, una patologia umana, genetica, la corea di Huntington, e vedo che le staminali embrionali ce la fanno e riescono a produrre quelle cellule che mi interessano, quelle adulte no. Quindi c'è. Cosa comporta quella patologia che lei sta studiando? Cosa comporta? È una malattia del cervello in cui muoiono neuroni, insomma una malattia genetica delle tante gravissime malattie umane. Compare a 30-35 anni, quando la malattia compare, se la persona ha figli, ciascun figlio ha il 50% del rischio di aver ereditato la malattia. Quindi insomma, cioè, sa, l'idea del non fare, cioè quindi non agire sulle cellule embrionali, del non fare, non mi sembra eticamente neutro. Francesco D'Agostino, cosa risponde? Rispondo che tutti questi argomenti hanno un fortissimo impatto emotivo e a partire da me stesso, questo va da sé. Però nessuno ancora mi ha dato una risposta o dà una risposta a questo semplice problema. Possiamo intervenire attraverso la ricerca scientifica sulla vita umana senza limiti? Possiamo intervenire sulla vita umana nelle primissime fasi del suo sviluppo senza limiti etici? Questo è solo il problema. Rendiamoci conto che noi stiamo elaborando una sensibilità bioetica, per esempio nei confronti della vita animale. Stiamo tutti potenziando la difesa della vita animale anche per ricerche di carattere medico. È solo la vita umana in questo momento che rimane indifesa di fronte a queste pretese che sono pure molto nobili e molto sensate come quelle della scienza, ma non riescono a porsi con chiarezza questo problema etico fondamentale. O noi decidiamo che ci sono dei limiti alla difesa della vita, sapendo che questi possono costare in termini di progresso della scienza, oppure facciamo della vita umana in generale un immenso campo di sperimentazione. Francesco D'Agostino, grazie, abbiamo capito i limiti e la complessità naturalmente degli interrogativi che si pone. Abbiamo capito d'altro canto anche la posizione della Cattaneo e dei ricercatori che dicono allora ci dobbiamo porre un limite che comporta anche il non curare, per esempio, non dare speranza al figlio di chi ha sviluppato questa patologia genetica e la scopre a 35 anni e potrebbe avere una speranza dalla ricerca sulle embrionali. Mi fermo un attimo per dar la parola a Andrea Dell'Acqua, responsabile in Italia di Stem Cell. Abbiamo perso allora Paola da Milano. Pronto? Pronto Paola? Sì, buongiorno, dica, sintetica, siamo in chiusura. Spero. Allora, io ho una maculopatia genetica da quando avevo 40 anni ed è andata degenerando chiaramente. E mi auguro che prima che il buon Dio decida che sono arrivata al capolinea, una ricerca non sulle cellule staminali adulte, perché la mia etica su quelle embrionali mi lascia un po' perplessa, si riesca ad arrivare a qualcosa. Signora, noi le facciamo naturalmente, perché ci uniamo a questo suo. Il sinistro l'ho perso e il destro ho un decimo di visus su 10, insomma, che me la cavo, per l'amor di Dio, perché ti abitui, gli altri sensi si acquisiscono molto di più, per cui ti aiutano. Però è chiaro che la qualità della vita sia condizionata e in maniera decisa e netta. Sintetica, Elena Cattaneo, in chiusura, ma cosa risponde? Io ovviamente faccio tanti auguri alla signora, cioè, mi viene da dire che ovviamente tutte le volte che vi sono delle prospettive nella scienza che si aprono, insomma, spesso sono accompagnate da dilemmi etici, filosofici, sociali, che per me sono altrettanto interessanti e credo che siano da prendere seriamente in considerazione quando sono giustificati, quando sono espressi in modo onesto e trasparente, quindi perché questo aiuta. Grazie, a chiaro, società. Aiuta il progresso in generale. Grazie a Elena Cattaneo, docente di farmacologia e responsabile del centro staminali dell'Università Statale di Milano. Grazie a Armando Massarenti per il libro Staminalia, è un giornalista e filosofo, si occupa del supplemento culturale del Sole 24 Ore la domenica. Grazie a Francesco D'Agostino, presidente onorario del Comitato Nazionale di Bioetica. Tante sarebbero ancora le cose da discutere, da una parte l'impostazione laica progressista e dall'altra chi dice che bisogna invece subordinare il benessere e la cura terapeutica anche a dei dogmi religiosi. Ci fermiamo qui noi per ora, ritorneremo domani mattina alle 7:15, voi continuate a votare sul sito www.radio24.it. Un saluto da Irene Zerbini.